Intanto io vorrei esprimere, se mi è consentito, un giudizio di carattere più generale, che mi sarà consentito farlo alla presenza anche dell'amico Prodi. A me sembra proprio bellissimo, come ho avuto modo di dire, mi sembra davvero straordinariamente ricco di ipotesi, di suggestioni e di temi che si situano fra riflessione di carattere storiografica e anche riflessione di carattere medico-politico e politico, nel senso anche di tempo. Sembra un libro proprio importante anche in relazione a ciò che accade all'interno della storiografia italiana nella sua complessità e nella relazione anche con altre forme della storiografia europea. E mi sembra importante perché pone una serie di straordinari temi di storia generale, anche se da questo punto di vista specifico del giuramento, quello che colpisce, almeno mi ha colpito all'interno di questo lavoro, è il fatto che si pongono appunto una serie di temi di questo tipo, muovendo, viene detto a più riprese, dalla consapevolezza che un ciclo interno della storia europea e occidentale si è compiuto, che all'interno di questo ciclo ciò che è in questione è lo Stato-Nazione, il rapporto tra Stato e Nazione, l'idea stessa di Europa, il rapporto tra Europa e tradizione cristiana. Se non siamo grandi temi con i quali è giusto confrontarsi, assumendoli proprio dal punto di vista della concettualizzazione di questo tempo lungo e di questa serenità. Mi fa piacere, devo dire, visto che l'amico Provido evoca nella introduzione, di chiamare anch'io il nome di Cantimoni. Credo che un lavoro di questo tipo avrebbe interessato molto Cantimoni, proprio perché sono stato su muscolato, che sia stato pessimo, quindi sbaglio. Proprio per la costruzione di un tema di storia generale, che Cantimoni, oltre a essere straordinario anatomista di problemi specifici, era straordinariamente attento ai problemi della storia generale, ai problemi della periodizzazione, perfino, e anzi di tutti a verbo, a questioni in senso laico ed alto di filosofia della storia. Forse si può dire addirittura di più, nel leggere questo insieme di questioni mi venivano in mente i saggi di Cantimoni giovane sulla storia tedesca, sulla giovane Germania, su quel mondo appunto dei punti, delle sette, che si ponevano in polemica esplicito con la costituzione dello Stato democratico moderno e che guardavano più avanti, guardavano invece a quello che poi sarebbe stato anche il resto del nazismo. E anche riferimenti a Schmitt, allo Schmitt del costituzionismo, a quel tipo di lavoro di Schmitt mi faceva venire in mente una serie appunto di temi che Cantimoni mette a fuoco con straordinaria chiarezza già nella legalità. E poi a mio giudizio anche per certi aspetti medico, ma non è di questo che dobbiamo ragionare. Io devo dire l'ho letto come un preziosissimo libro di storia, ma non dare conto del tipo di lettura che io ho fatto, del tipo di cose che ho appreso, se non dicessi che mi ha affascinato il problema, uno dei problemi che viene posto nel libro, quando si parla appunto della crisi della politica, della crisi della politica nella sua generalità, della crisi della politica moderna, della crisi dello Stato democratico, e quando si pone il problema delle vie di costruzione possibili di una politica democratica, al di là, come viene detto anche nelle ultime pagine, di un approccio che pensi di risolvere i problemi della crisi della democrazia con soluzioni di carattere tecnico, che non si misurano invece, e qui comincio a venire maggiormente al punto propriamente storiografico, che non si misurino con il problema di fondo della ricostruzione di una democrazia che è il problema del vincolo e del patto. Su questo punto, pur venendo da una formazione molto diversa, per certi versi, da quella dell'amico Prodi, mi ha colpito il fatto di trovarmi del tutto in sintonia su un punto, se lo capisco bene, appunto su questa centralità del vincolo, sulla necessità di porre la questione in questi termini, con la consapevolezza che è necessario definire un una dimensione prepolitica per la ricostruzione della stessa dimensione politica, una dimensione prepolitica che ha a che fare con la dimensione religiosa, con la questione della religione, nella consapevolezza appunto che non si esce da un problema di questo tipo se non collocandolo su questo sfondo, oltre alla tecnica, come un problema del vincolo che proprio lega la tradizione cristiana al dualismo cristiano di Aristotele, ma al di là di quello che è il punto suo specifico, questo mi sembra che vada rilevato questo argomento, questo tema, da un punto di vista generale. Il libro nasce sempre, io credo, un problema, non un problema vero, mi è sembrato che questo fosse in qualche modo il problema, tenendo anche conto di quelli che sono stati gli esiti anche catastrofici della politica moderna e della politica europea. Io ho trovato un altro punto che mi ha interessato, importante poi come ovvio tutta la questione del moderno e della modernità che viene posto in questo libro. Mi è sembrato interessante lo sforzo di andare oltre quelle interpretazioni tante volte polarizzate, da un lato sul tema della laicizzazione, assunto come processo di una ragione che diventa autoconsapevole di sé, e dall'altro lato di una secolarizzazione intesa come pura perdita del principio della ragione. Mi pare invece che, come dire, l'acquisto di fondo dal punto di vista della storia istituzionale, ma non solo, è legato appunto a questo intreccio fortissimo entro cui è tutta la modernità nel rapporto appunto tra teologia e politica, tra religione e politica, che è tutto essenziale per riuscire a capire quelle che sono stati i tratti della nostra modernità. E qui mi veniva da pensare come si potrebbe estendere l'immagine su queste direzioni di ricerca, per esempio verso direzioni anche ermetiche legate all'ermetismo di Aristotele, ma queste sono suggestioni del giorno. Dunque, l'idea di vincolo, devo dire, questa è quella che mi ha interessato, su cui vorrei dire qualcosa in relazione a Bruno e anche a Materelli, ma soprattutto a Bruno, sul quale peraltro Rodi fa un'osservazione precisa relativamente alla differenza della posizione di Bruno nei confronti di Machiavelli proprio sul tema del giuramento, sul tema del patto, perché è vero che Bruno pensa essenzialmente, guarda senza avere la congiura in qualche modo, un giudizio negativo sulla congiura, anche se credo alla pena di citare un testo dello Spazio, a pagina 760, in cui Bruno, riprendendo questo tipo di questioni, valorizza fortemente la fede, che deve essere fra le virtù celebratissime. E se questa fede non sarà data con condizione di un'altra fede, mai si alesce rompersi per la rottura dell'altra, atteso che è legge da qualche giudeo o saraceno, bestiale e barbaro, non da greco e romano, civile ed eroico, che alcuna volta e con certe sorte di genio, solo per propria comodità ed occasione di inganno, sia lecito donare la fede con farla ministra di tirannia e tradimento. Comunque questo è laterale rispetto a quello che volevo dire. Volevo invece richiamare l'attenzione su un altro punto all'interno del ragionamento che sto cercando di fare, e cioè che Bruno è all'interno della filosofia del cinquecentesco, credo si possa dire, uno dei più acuti interpreti del tema del vincolo, nel senso che la filosofia di Bruno è una filosofia che tematizza a fondo il tema del vincolo. E lo tematizza non solo in una serie di testi sparsi in varie opere di Bruno, ma lo tematizza direttamente in un'opera latina dell'ultimo periodo della produzione di Bruno, che si chiama appunto De Vincolis, in cui il problema è per l'appunto quello delle forme del vincolo, delle tecniche della vincolazione, delle amore, da quello che per Bruno è il vincolo dei vincoli, che è il vincolo dell'amore. Ma la cosa interessante è che Bruno lega, in questo senso credo possa essere di un qualche interesse per l'amico Prodi, lega questa tematica del vincolare alla tematica del governo e del dominio politico e nell'acquisizione delle capacità del titolare, che presuppongono ancora una volta conoscenze di carattere magico e di carattere naturale, sta la possibilità di farsi capitano di popoli, capo di sette, legando il proprio destino in qualche modo alla vicissitudine universale, all'analisi delle forze che agiscono nella natura in un rapporto di simpatia, di antipatia e di rispetto. Voglio dire che in questo caso il vincolo è intrecciato a una dimensione di carattere politico, ma anche in direzione della problematica naturale e anche in direzione della tematica magica. Temi che a loro volta erano stati già ripresi nello spazio, in cui su questo sfondo, ma qui Prodi dice cose su cui non ho nulla da dire, qui si vede in qualche modo si stabilisce un rapporto fra Bruno e Machiavelli su questa tematica del vincolo, con una precisazione, cioè che fondamentalmente da parte di Bruno il vincolo non sta solo come vincolo politico, ma sta come vincolo universale complessivo all'interno di una riflessione sulla religione che stringe insieme Machiavelli ma anche il medico. Questo non mi fermo ulteriormente, non per dire che questo universo l'uniano è un universo interamente strutturato da vincoli attraverso vincoli, in cui la grande sapienza dei filosofi egizi, degli antichi egizi, è stato appunto quello di comprendere questo linguaggio della vincolazione universale. Qual è stata la grandezza della religione antica, della religione egizia? È stata appunto quella di conoscere la lingua che vincolava il Dio e gli uomini della natura e gli uomini fra loro. Da questo punto di vista c'è un giudizio di Bruno sul cristianesimo e c'è un giudizio di Bruno proprio su questo tipo di tematica nei confronti della tradizione egizia. Il cristianesimo, e che per Bruno è essenzialmente il vero, il punto di attacco frontale da parte di Bruno è sempre il vero, il primo luogo. Io credo che vada distinto sempre il giudizio di Bruno verso la Chiesa cattolica e verso la Riforma e il Lutero. I veri assi sono luterani. Bene, anche Lutero, in questa posizione, il cristianesimo, soprattutto il cristianesimo luterano, interviene come elemento che spezza e rompe in qualche modo questa comunicazione universale, riponendo il problema di una nuova religione che ha precisamente come suo principio la rivelazione universale di Dio. Credo che sarebbe interessante ragionare su questo concetto di religione, perché in qualche modo esso allude a qualcosa che è dentro la religione ma ha oltre la religione. Mi preme invece dire, perché non voglio avere il piacere, mi preme invece dire un altro rilevante solo punto. Anche questa relazione a tutta una serie di affermazioni che fa Prodi in rapporto al processo di confessionalizzazione. Io credo che un'incidenza di questo processo lo possiamo compiere addirittura all'interno della riflessione di Bruno sull'esperienza religiosa e sulla religione, cercando di mettere in evidenza, come credo si possa mettere in evidenza, la diversità con cui Bruno pone il problema della religione nei primi dialoghi cosmologici, cena, causa e infinito, e il modo in cui pone invece il problema della religione nello spazio. Per dirla in essenza, in questi primi dialoghi cosmologici, di Bruno c'è la persuasione ancora di poter riuscire a determinare dei campi di distinzione, di compatibilità tra verità e legge, tra filosofia e religione. Cioè, la persuasione di determinare questa duplicità di campi, assumendo che la religione è il vincolo sociale fondamentale per gli uomini rossi e per la moltitudine che non si sa governare, mentre invece la verità, mentre invece la filosofia è per i saggi, per la verità, già che la verità è conosciuta da pochi e soltanto pochi saggi possono essere in qualche modo in grado di seguire. Distinzione di campo che riguarda proprio il concetto di legge e il fine della legge. E quale fine della legge? Non è di cercare la verità, quando appunto la bontà di costumi è questo, questa distinzione che riguarda anche il problema esegetico di fondo, che è l'analisi della scrittura, come è scritta la scrittura, qual è il linguaggio della scrittura, la pluralità dei linguaggi della comunicazione e del vincolo, per cui è possibile riuscire in qualche modo a individuare all'interno della stessa scena, o della stessa scrittura, dei luoghi di convergenza, non di divergenza, fra la filosofia romana e la sacra scrittura. La scrittura si presenta con una pluralità di conoscenze che sono individuabili anche nella scrittura, secondo una linea che poi arriverà anche a lei e non più. Questo punto mi interessa, la legge come vincolo sociale che ha questo destinatario, via di scuola. Ora il punto interessante è che progressivamente, proprio in relazione a quello che avviene a livello di lotta fra le varie confessioni, e non soltanto fra la Chiesa cattolica e genericamente le chiese riformate, ma all'interno dello stesso schieramento riformato, fra luterani e calvinisti, oppure fra cattolici e puritani. Io ho la sensazione che sia essenziale definire il rapporto di Bruno con ciò che avviene nella Chiesa puritana tra il 1583 e il 1584. Qui c'è un libro di Collinson veramente molto bello sul movimento puritano nel periodo di Elisabetta, ma non mi fermo. Voglio invece dire che dalla percezione di ciò che avviene nelle vicende politiche religiose europee, il Bruno matura progressivamente, questo è l'altro punto che volevo mettere in evidenza, la persuasione di riaffrontare il problema del vincolo religioso come problema della civiltà nella sua interezza, al di là di qualsiasi possibilità di distinzione di campo fra religione e fede. Cioè c'è la presa d'atto che o si ricostituisce, per dire in modo russo, un vincolo religioso fondamentale che in qualche modo si dia come esperienza originaria, naturale, fondamentale, oppure non si esce neppure dalla crisi della filosofia e della verità. Cioè c'è la consapevolezza che il problema della verità, come problema della verità, pone alle radici un problema che riguarda il vincolo religioso della comunità, del conflitto umano, della conversazione umana e via discorrendo. C'è la persuasione che è necessario elaborare una nuova religione, proprio nel senso del legame, la quale sia in grado, come l'antica religione, la religione degli Egizi, la religione dei Sapienti, di riportare ad unità la legge del legislatore, la sapienza del filosofo, l'esperienza religiosa del sacerdote, un punto nel quale queste esperienze si annovano in qualche modo. Cioè, si fa chiara, proprio ragionando sul tema del vincolo, che la restaurazione della scienza è possibile solo rinnovando la religione, facendosi riformatori. O si diventa riformatori, o non si riesce, per dire in modo rozzo, neppure a essere filosofo, neppure a salvaguardare, per così dire, la dignità della filosofia. Ed è appunto su questo punto, su questo tipo di questione, che si dà un incontro fra Machiavelli e Bruno, e precisamente nei termini in cui pone il problema Prodi nel volume Ragionando di Machiavelli. Non il Machiavelli del principe, il silenzio fragoroso che pare su questo tema, certamente dice Prodi, ma invece i discorsi sulla materia, il problema della religio e in questo quadro della società e della civiltà, cioè come elemento che rappresenta un valore prepolitico e pregiuridico espresso dal giuramento, che è fondamentale per lo sviluppo stesso delle scienze, delle opere e dei costumi, per ripiegare in qualche modo l'espressione che Bruno utilizza da questo punto di vista. Ecco, su questo punto, proprio questione del vincolo, questione della legge, questione del giuramento, Bruno politico, e politico perché riformatore, i due Onesti e riformatore politico, perché teorico del vincolo, teorico filosofico del vincolo, si dà un rapporto fra volume e materia, proprio sulla concezione della religio come vincolo originale della società, come pietra angolare di una civiltà, come struttura fondamentale del vivere, ma non solo del vivere civile, del vivere filosofico degli uomini, del vivere etico degli uomini, del vivere nella loro, nella ricchezza della loro esperienza, con un oltrepassamento, direbbero alcuni filosofi, della distinzione fra legge e verità, fra filosofia e religione, muovendo invece a un intreccio organico di filosofia, di religione e di vivere civile, ma non con un riassorbimento dell'intero dentro il vivere civile. Dico questo per enucleare un punto terminale che riguarda l'altro lato della riflessione di Bruno sulla religio, che è il lato magico, ermetico, egizio, cioè il Bruno che riflette sulla religione naturale. In un quadro all'interno del quale e religione civile e religione naturale si compongono nella concezione del vincolo come principio costitutivo del rapporto dell'uomo con l'uomo, dell'uomo con la natura, nel quadro di una comunicazione universale che tocca tutti i livelli della realtà. Ed è questo appunto il tipo, l'ordine di considerazioni che poi spinge Bruno fino al De Vinculis, che è quindi testo politico, ma con queste peculiarità, all'interno a sua volta di una filosofia che, ponendo il tema del vincolo, pone immediatamente insieme al tema del vincolo il tema del linguaggio. Pone sempre il problema del linguaggio. Quali sono le forme del linguaggio e se i vincoli sono infiniti, i linguaggi saranno infiniti, e la sapienza sarà appunto nel riuscire a cogliere appunto questa pluralità di lingua. In relazione a questo punto c'è un dato del quale pure mi è sembrato di cogliere qualche eco, mi avvio a finire, qualche eco nel ragionamento di Prodi, proprio relativamente alla giovinezza e alla vecchiaia della religione. La religione è giovane, il mondo è giovane, nei momenti in cui i linguaggi si fioriscono col massimo della potenza, mentre invece la vecchiaia si dà nel momento in cui i linguaggi si rompono, cioè la rottura del vincolo e la vecchiaia del mondo. Il mondo è vecchio se si rompe il vincolo. Se io voglio ringiovanire il mondo, se voglio riportare il mondo all'antico volto, dice Bruno nello spaccio tra il centro, per modo di dire, perché si tratta tanto per la traduzione, ho bisogno di ricostituire il linguaggio, il vincolo, le forme della praxis, ad esempio della magia, entro cui si dà la giovinezza dell'umanità. E rispetto a questo fa rifunzionare nuovamente il ragionamento sul cristianesimo e sull'incidenza del cristianesimo. E insisto su questo per dire appunto la pluralità di posizioni che intorno al vincolo si danno all'interno della tradizione cristiana, ma anche da parte di un pensatore radicalmente anticristiano come Bruno, il quale, e qui proprio abbozzo il tema, perché è un altro punto estremamente interessante del ragionamento di Prodi, il tema del dualismo, dualismo istituzionale, dualismo in senso più complessivo, è che io credo che si trovi di fronte con quella di Bruno a una filosofia che nell'impulso a una posizione monistica ha dentro di sé la persuasione che ciò che è assoluto non si dà mai nell'esperienza del mondo, che c'è, come dire, una irriducibile distanza fra l'assoluto e il comunicato, che la dimensione dell'uomo è sempre il comunicato e non può essere mai assoluto, con tutto ciò che questo implica dal punto di vista della concezione dell'uomo, della dimensione, della riflessione di Bruno sulla tematica della società, dell'uomo e via discorrendo. Un altro punto sul quale in relazione a Bruno mi faceva riflettere ancora Prodi è appunto il tema dell'unità e della frattura della società cristiana, che Bruno ha fortemente presente di fronte a sé, che lo spinge ad avere un rapporto strettissimo con Erasmo sul tema della pace, sul tema del vincolo cristiano, rideterminato ovviamente in modo molto diverso, ma con una forte attenzione questa questione della rottura della società cristiana, che lo porta a ripensare tutta la stessa questione dei sacramenti, avvicinandosi a tematiche erasmiane, laddove insiste, per esempio, parlando del 1585, alla fine dell'85 a Parigi con Guillaume Cotten, a insistere sulla necessità che la Chiesa cristiana si ritrovi per vincolarsi in pace su una serie di fondamenti di fede estremamente concentrati e ridotti, in qualche modo, no? I fondamentali affidati che devono essere estremamente ridotti perché si possa avere un vincolo che al tempo stesso civile e culturale interessa. Su questo io non insisto ancora. Mi sarebbe piaciuto, devo dire, ma qui Enrico ne sa più di me, che su questa scia Bruno Machiavelli arrivare a Charlot in relazione appunto a questo tipo di tematiche e al rapporto anche fra diffidenza, dissimulazione, insomma tutto il terzo libro della saggezza, che da questo punto di vista potrebbe essere utile all'interno di questo libro di giorno. Ma sto zitto, mi chiudo, se non riproponendo quello che a me è sembrato un tema centrale di questo libro, sul quale, come dire, io sono entrato maggiormente in sintonia, cioè proprio come oggi porsi il problema di una ricostituzione della democrazia, come riuscire a riproporsi il problema di un vincolo, in qualche modo, che deve essere un vincolo, fra virgolette, religioso, e si tratterà di ragionare su questo tema, sulla pluralità di religioni e di religioso, e come riuscire a porsi questo tipo di questione tenendo conto di tutto quello che è stato il Novecento, la sacralizzazione della politica, oppure per dirla con un tema, con un'espressione splendida, mi pare, di Manno, nelle considerazioni di un politico, dopo il tempo della politicizzazione di massa, con tutta una serie di temi, di questioni che vengono su tutto questo, dopo, di fronte alla catastrofe che abbiamo di fronte, dello Stato nazionale, della storia dell'Europa, della politica che è stata elaborata in questa tradizione. Com'è possibile riproporsi questo punto? Com'è possibile riproporsi questo punto? Com'è possibile riproporselo anche in Italia? Gente, leggendo le pagine di Prodi, gli scritti bellissimi di Franco De Felice proprio sul tema della doppia lealtà, della doppia fedeltà, come proprio di un tratto lungo della storia repubblicana italiana. All'interno di una particolare nazione le classi dirigenti si sono ridefinite sul piano interno sempre attraverso anche messi caratteri internazionali. E qui proprio dice delle cose veramente molto interessanti, molto ricche e molto coinvolgenti proprio nelle ultime pagine, a proposito appunto della potenza della nostra tradizione, del principio della doppia appartenenza, di un doppio ordinamento che è il nostro dramma, può essere anche la nostra salvezza. Relativamente a tutti i ragionamenti anche che fa su Sartre, sulla tematica dell'altro, sulla necessità di un rapporto sempre triangolare, non ridotto solamente in termini. Visto che l'amico Prodi ha citato un autore che anch'io da reprova ed eretico amo molto, cioè Bonnefer, mi era venuto in mente un bellissimo testo di Bonnefer del 20 settembre del 1943, chiudo con questo, in cui Bonnefer pone il grande tema dello sguardo dal basso. Ecco, voglio dire, noi il vincolo dobbiamo riacquisirlo solo con uno sguardo che guarda verso l'alto. Anche all'interno di questo tipo di morfologia, il nostro sguardo, per costituire quel vincolo che è fondamentale, deve solo guardare in quella direzione, oppure si può riflettere su questo tipo di testo che vi dico. Resta un'esperienza di incomparabile valore l'avere imparato a vedere dal basso i grandi avvenimenti della storia del mondo, nella prospettiva degli esclusi, dei sospettati, dei maltrattati, dei deboli, degli oppressi e dei disperati, dei sofferti. E già tanto se in questo tempo l'avarezza o l'invidia non hanno divorato il cuore, ma anzi guardiamo con occhi nuovi la grandezza e la meschinità, la felicità e l'infelicità, la forza e la debolezza, e la nostra capacità di vedere la grandezza, l'umanità, il diritto e la misericordia, il diritto e la misericordia è diventata più chiara, più libera, più incorruttibile, e la sofferenza personale è una chiave più idonea, un principio più fecondo della felicità personale nell'accedere al mondo con la riflessione e la parte. Poi dice una cosa, secondo me, straordinaria. Tutto dipende solo dal non trasformare questa prospettiva dal basso in uno schierarsi con gli eterni scontenti. E invece del far giustizia e nell'affermare la vita in tutte le dimensioni, sulla base di una contentezza maggiore, di cui fondamenti, e qui Bonheffer va dietro il suo daimon, non sono né in basso né in alto, ma al di qua di queste dimensioni. Ecco, io su una connessione possibile tra la ricostituzione di un vincolo che riguardi il destino della democrazia e questa tematica straordinaria dello sguardo dal basso di Bonheffer, credo che varrebbe la pena di fare una riflessione, se avessimo più tempo, ma io non posso. Thank you.